Capitolo 2. Apprendo con gioia, mio carissimo amico, che la nube di amarezza si è dissolta. Sei tornato a considerarmi con benevolenza e desideri che continui la mia storia. Ebbene, ti accontento senza ulteriori indugi. Mi ero fermato, credo, a scriverti dell'ultima domenica di ottobre del 1827. Il martedì dopo uscii a caccia con il cane e il fucile nella riserva di Lindencar, dove, non trovando selvaggina, presi a sparare ai falchi e alle cornacchie, sospettando peraltro che fosse colpa loro se non trovavo prede migliori. Mi lasciai dunque alle spalle gli angoli più frequentati, i boschi, i campi e i prati, per risalire verso Wildfell, la collina più alta e selvaggia di tutta la zona. E notai pian piano le siepi e gli alberi diradarsi, lasciando spazio le prime ai muretti di pietra coperti da edere e muschi e gli ultimi all'arici, abeti o pruni isolati. I campi erano sempre più ghiaiosi e irregolari, decisamente inadatti alla coltivazione e utilizzati soprattutto come pascoli per le greggi e il bestiame. Era un terreno infecondo e povero. Si capiva dalle pietre grigiastre che spuntavano qua e là sotto i muretti, crescevano anche eriche e mirtilli, a testimonianza del fatto che un tempo quella zona doveva essere ancora più incolta e selvaggia. Mentre all'interno di alcuni recinti l'erba era soffocata da ambrosie e festuche, ma non mi trovavo già più nella mia proprietà. Arrivato quasi in cima alla collina, a un paio di miglia da Lindencar, ecco apparire Wildfell Hall, un'antica costruzione in pietra scura di epoca elisabettiana, grande ed aspetto pittoresco, per quanto immaginai dovesse essere invece fredda e tetra all'interno, data la posizione così esposta e isolata, gli spessi muri di pietra, le finestre piccole e gli sfiati rovinati dal tempo. A scudo delle piogge e dei venti c'era solo un gruppetto solitario di abeti scozzesi, piuttosto mal ridotti, e dall'aria tetra e severa anch'essi. Dietro la casa, oltre una serie di campi inutilizzati, c'era la sommità brulla della collina, mentre sul davanti, all'interno di una recinzione in pietra accessibile attraverso un cancello di ferro, i cui pilastri erano sormontati da due grandi sfere di granito grigio, uguali a quelle che si trovavano sul tetto e sui frontoni della villa, c'era un giardino, un tempo pieno di piante e fiori in grado di resistere a quel terreno e a quel clima, e di alberi e cespugli che il giardiniere potava cercando di dar loro una forma. Ormai trascurato da così tanto tempo, incolto, abbandonato alle erbe infestanti e ai capricci del tempo, si presentava in modo piuttosto insolito. Il ligustro che copriva le mura lungo il viale principale era avvizzito per due terzi, mentre il resto era cresciuto a dismisura. C'era un cigno di bosso accanto allo zerbino, che aveva perso ormai parte del collo e metà del corpo. L'alloro al centro del giardino, il guerriero e il leone accanto al cancello avevano ormai assunto forme tanto assurde da non somigliare più a niente che fosse in cielo né in terra né in mare, eppure colpivano la mia giovane fantasia come forme sinistre che ben si accordavano alle storie di fantasmi che ci aveva raccontato la balia su quell'edificio infestato dagli spiriti e sulla famiglia che un tempo ci abitava. Avevo già preso un falco e due cornacchie quando arrivai vicino alla villa. A quel punto lasciai stare la caccia e presi a passeggiare lì intorno per dare un'occhiata e vedere che cambiamenti vi aveva apportato la nuova proprietaria. Non volevo avvicinarmi all'ingresso principale e mettermi a guardare dal cancello, quindi mi fermai lungo il muro esterno. Non vidi nulla di diverso, a parte in un'ala in cui le finestre e il tetto erano stati riparati. Proprio da lì vidi levarsi un sottile filo di fumo. Me ne stavo così, appoggiato al fucile e perso a fantasticare sulle vecchie leggende e la nuova giovane reclusa, quando sentii un leggero rumore in giardino poco oltre il muro. Mi voltai in quella direzione e scorsi una piccola mano poggiata sopra il muro, poi un'altra e infine una fronte bianca, occhi azzurri, morbidi riccioli castani e l'inizio di un nasino perfetto. Quegli occhi non notarono me, ma si illuminarono alla vista di Sancho, il mio bel setter bianco e nero che scorrazzava lì davanti con il naso a terra. Il bambino si sollevò ancora di più e chiamò forte il cane. L'animale, buono per natura, alzò il muso e scodinzolò, senza avvicinarsi. Il piccolo, avrà avuto 5 anni, si arrampicò e continuò a chiamarlo senza successo. Decise quindi, come Maometto, di andare lui alla montagna, giacché la montagna non andava da lui. Stava cercando di scavalcare il muretto, quando i rami di un vecchio ciliegio nodoso gli si impigliarono ai vestiti, e finì per perdere l'equilibrio nel tentativo di liberarsi, e ritrovandosi appeso al muro, si mise a piangere. Nel giro di un istante gettai il fucile da una parte e corsi a prenderlo in braccio. Gli asciugai le lacrime, gli dissi che andava tutto bene e per consolarlo feci avvicinare Sancho. Stava giusto tornando a sorridere accarezzando il cane quando sentii il cancello scattare, poi un fruscio di vesti femminili ed ecco la signora Graham in persona che correva verso di me con il collo scoperto e i ricci neri sciolti nel vento. «Datemi il bambino!» sussurrò con una certa allarmante irruenza. Mi strappò il piccolo dalle braccia come se potessi in qualche modo contagiarlo di chissà quale pericolosa malattia. E poi, stringendo con una mano quella del piccolo e tenendo l'altra sulla sua spalla, mi fissò con i suoi grandi e luminosi occhi neri, agitata e senza fiato. «Non stavo facendo niente di male, signora», le dissi, indeciso se sentirmi più meravigliato o offeso dalle sue maniere. «Stava cadendo dal muretto e sono riuscito a prenderlo quando era appeso a quel ramo prima che si facesse male». «Mi scuso, signore», farfugliò lei, improvvisamente più calma. Sembrava avere ritrovato un po' di senno e arrossì leggermente. «Non vi ho mai visto qui e pensavo che...» Si abbassò a dare un bacio al bambino, passandogli con amore un braccio intorno al collo. «Credevate che volessi rapirlo?» Rise, imbarazzata, accarezzando la testa del bimbo. «Oh, ignoravo che stesse cercando di scavalcare il muretto. Ho il piacere di parlare con il signor Markham, giusto?» disse in tono brusco. Chinai leggermente il capo e le domandai come facesse a saperlo. «Oh, è venuta a trovarmi vostra sorella qualche giorno fa insieme con la signora Markham. Ci somigliamo così tanto?» chiesi stupito e non troppo lusingato. «Sì, direi che c'è qualcosa negli occhi e nell'incarnato», commentò studiandomi in viso. «E poi mi pare di avervi visto anche in chiesa, domenica». Le sorrisi. Qualcosa nel mio sorriso le era sicuramente sgradevole, perché la vidi assumere di nuovo quello sguardo freddo e altero che tanto mi aveva colpito in chiesa. Così sprezzante, immediato e assoluto da sembrare naturale, cosa che trovavo ancora più provocatoria. «Vi saluto, signor Markham», concluse senza aggiungere nemmeno una parola né un altro sguardo prima di allontanarsi verso il giardino con il bambino. Io me ne tornai a casa, nervoso e scontento. Non saprei spiegarti il perché e non ci proverò. Mi fermai giusto il tempo per mettere a posto il fucile e la polvere da sparo e impartire un paio di ordini indispensabili a un contadino. Poi uscii di nuovo e andai a casa del reverendo nella speranza che stare in compagnia di Eliza Millward e scambiare 2 parole con lei mi confortasse e mi aiutasse a tirarmi su. La trovai che ricamava, come al solito, non aveva ancora iniziato ad appassionarsi alle lane di Berlino, mentre sua sorella era accanto al camino che rammendava delle calze con il gatto in grembo. «Mary, Mary, levale di mezzo!» disse Eliza agitata mentre stavo entrando. «Non ci penso neanche», rispose lei calma. Il mio arrivo troncò la discussione. «Che sfortuna, signor Markham», disse la sorella piccola. «Papà è uscito adesso per andare in chiesa e non tornerà prima di un'ora». «Oh, non importa. Passerò un po' di tempo con le sue figlie, se posso», risposi portando una sedia vicino al fuoco e mettendomi a sedere pur senza essere stato invitato. «A patto che siate allegro e simpatico, noi non opporremo resistenza». «Niente patti, vi prego. Sono venuto non per offrire intrattenimento, ma per cercarne io». Pensai che fosse comunque opportuno impegnarmi almeno un po' per rendere piacevole la mia visita. E bastò in effetti davvero molto poco, giacché Eliza era più che mai allegra. Eravamo, insomma, ben contenti l'uno della presenza dell'altra, conversammo allegramente e animatamente, per quanto poco profondamente. Fu come fossimo da soli, in pratica, dato che sua sorella Mary rimase quasi sempre in silenzio, se non per correggere ogni tanto qualche parola di troppo o qualche eccesso di Eliza, e una volta per chiederle di raccogliere il cotone che le era caduto. Lo presi io da terra, come era conveniente. Grazie, signor Markham, mi disse mentre glielo passavo. L'avrei raccolto da sola, ma non volevo disturbare il gatto. Ma Mary, questa non è certo una giustificazione agli occhi del signor Markham, le disse Eliza. Lui detesta i gatti, cordialmente, come anche le vecchie signore, oserei dire. Non è così, signor Markham? Trovo normale che il nostro poco amabile sesso abbia in antipatia queste creature, dal momento che voi, signore, le coprite di carezze, risposi. Che Dio vi benedica, piccole, care creature, esclamò lei d'improvviso, girandosi a sbaciucchiare la bestiola della sorella. Eliza, basta così adesso, le disse l'altra, allontanandola con una certa impazienza. Era il momento di tornare a casa. Pure a passo svelto sarei comunque arrivato in ritardo per il tè, e mia madre era la precisione e la puntualità fatte persona. La mia graziosa amica non aveva affatto voglia di separarsi da me. Prima di congedarmi le strinsi piano una mano e lei mi contraccambiò con un sorriso dolcissimo e uno sguardo malizioso. Tornai a casa con il cuore pieno di soddisfazione per me stesso e di amore per Eliza. Capitolo 3. 2 giorni dopo, la signora Graham venne a trovarci all'Indencar, contro ogni previsione di Rose, che, sostenuta dai Wilson e dai Millward, era convinta che la misteriosa occupante di Wildfell Hall avrebbe ignorato le più comuni regole di buona educazione e non avrebbe mai ricambiato le visite. A quel punto però fu chiaro anche il motivo per cui non l'aveva fatto prima, anche se Rose non ne fu tanto soddisfatta. La signora Graham portò con sé suo figlio e mia madre si meravigliò che il bambino avesse camminato tanto a lungo. Sì, la strada è tanta per lui. Del resto, se non l'avessi portato con me, avrei dovuto rinunciare. Non lo lascio mai da solo. Anzi, signora Markham, vi prego di voler porgere le mie scuse ai Millward e alla signora Wilson, giacché non credo che potrò allungarmi a far visita anche a loro prima che Arthur sia in grado di venire con me. Eppure avete una governante, non potreste lasciarlo con lei? Chiese Rose. Oh, ha già molto altro da fare, è troppo vecchia poi per stare dietro a un bambino, e lui troppo scalmanato per restare con una donna anziana. Per venire in chiesa però gliel'avete lasciato. Sì, e non l'avrei fatto per nessun'altra ragione, anzi, se in futuro non troverò la maniera di portarlo con me, penso proprio che me ne resterò a casa anch'io. Ma è tanto monello? Domandò mia madre stupita. Oh no, disse lei, accarezzando i ricci del bambino, seduto ai suoi piedi su un piccolo sgabello. Ma è il mio unico tesoro, e io la sua unica amica. Non ci piace stare separati. Mia cara, ma che esagerazione, commentò mia madre, senza troppi complimenti. Dovreste scoraggiare un attaccamento tanto forte per evitare a vostro figlio la rovina e a voi una figuraccia. La rovina? Ma, signora Markham? Esatto. Così lo vizierete. Alla sua età non dovrebbe più stare così attaccato alle gonne della madre. Dovrebbe anzi vergognarsene. Signora Markham, vi prego di non parlare in questo modo e soprattutto non davanti a lui. Sono sicura che mio figlio non si vergognerà mai di amare sua madre, disse la signora Graham con tale impeto da farci sobbalzare tutti. Mia madre cercò di spiegarsi meglio per calmarla, ma lei fece capire chiaramente che era stato detto sin troppo e passò a un altro argomento. Lo dicevo io, pensai, la signora non ha affatto un temperamento mite, malgrado il volto dolce e pallido e la fronte alta su cui si legge chiaramente il segno del dolore e delle preoccupazioni. Me ne restai tutto il tempo in disparte a leggere un numero della rivista dell'agricoltore seduto al tavolo. Era quel che stavo facendo quando era arrivata la nostra ospite, e per non esagerare con le cortesie, mi ero limitato a un cenno di saluto con il capo per poi riabbassare lo sguardo. Dopo un po' sentii avvicinarmisi qualcuno con passo leggero ed esitante. Era il piccolo Arthur, inesorabilmente attratto da Sancho accucciato ai miei piedi. Alzai lo sguardo e lo trovai fermo a un paio di metri da me, che fissava il cane, intimidito non tanto da lui quanto dall'idea di doversi avvicinare al padrone. Con un po' di incoraggiamento venne avanti. Era un bambino timido ma non introverso. Nel giro di un minuto era già sul tappeto abbracciato con Sancho e dopo altri 2 minuti sulle mie ginocchia a guardare interessato i vari cavalli, buoi, maiali e modelli di fattorie sulla rivista che avevo davanti. Di tanto in tanto guardavo la madre per capire come stava prendendo quell'amicizia appena nata e capii da una certa inquietudine nei suoi occhi che la situazione la metteva a disagio. Arthur, vieni qui, non disturbare il signor Markham che stava leggendo, gli disse. Oh, non mi disturba affatto, signora Graham. Lasciatelo pure restare, io sono contento quanto lui, risposi. Malgrado questo, lei lo richiamò a sé con un gesto della mano e uno sguardo. Dai, mamma, voglio vedere queste figure, poi dopo te le racconto. Vogliamo dare una piccola festa lunedì 5 novembre, le disse mia madre. Mi auguro che non rifiuterete l'invito, signora Graham. Naturalmente potete portare con voi il bambino, che sono certa si divertirà. Così avrete modo di scusarvi voi stessa con i Millward e i Wilson, che spero saranno tutti qui. Vi ringrazio, ma non vado mai alle feste. Sarà una cosa davvero molto intima. Faremo presto e ci saranno solo persone che lei già conosce, a parte il signor Lawrence, il vostro padrone di casa. Abbiamo già avuto qualche scambio. Per questa volta comunque dovrete scusarmi. Fa ancora buio molto presto e la stagione è umida. Arthur è troppo delicato e non voglio rischiare. Preferisco approfittare della vostra ospitalità quando avremo giornate più lunghe e serate più calde. A un cenno di mia madre, Rose prese dalla dispensa di legno di rovere una bottiglia di vino e un dolce che furono serviti ai nostri ospiti. Gradirono tutti e due il dolce, ma scartarono il vino, malgrado l'insistenza della padrona di casa. Specialmente Arthur appariva talmente spaventato da quel liquido rosso da essere sul punto di piangere. Non preoccuparti, Arthur, gli disse la mamma. La signora Markham crede solo che ti farebbe bene perché sei stanco della lunga camminata, ma non vuole forzarti a berlo. Penso che starei bene anche così. Non sopporta neppure di vederlo da lontano, concluse poi. Anche l'odore lo disgusta. Gli ho somministrato vino e altri alcolici annacquati per dargli un po' di sollievo quando aveva mal di pancia e devo dire onestamente di aver fatto il possibile perché non gli piacessero. Al che risero tutti, tranne la giovane vedova e suo figlio. Cara signora Graham, le disse mia madre asciugandosi dagli occhi azzurri le lacrime per le troppe risate, non finite di meravigliarmi. Pensavo foste una donna di buon senso. Ne state facendo un po' pante come non se ne vedono da tempo. Ma cosa pensate di... Io trovo che sia invece un ottimo piano, la interruppe la signora Graham, seria e impassibile. La mia speranza è che così facendo si risparmi un orribile vizio. Magari in questo modo eviterà anche di prendersene altri. Ma in questa maniera non lo renderete certo virtuoso, dissi io. Cos'è in fondo la virtù, signora Graham? Volere ed essere capace di resistere a una tentazione o non averne alcuna? Un uomo che supera grandi difficoltà ottenendo ottimi risultati a costo di sforzi muscolari e di fatica, o quello che rimane in poltrona tutto il giorno senza altro da fare che attizzare il fuoco nel caminetto e portare il cibo alla bocca. Se desiderate che vostro figlio viva con onore, non dovreste togliergli i sassi da sotto i piedi, ma far sì che sappia camminarci sopra in equilibrio, senza che lo teniate per mano. Gli terrò la mano fino a quando non sarà in grado di andare avanti da solo. Signor Markham, e gli toglierò i sassi da sotto i piedi ogni volta che potrò, insegnandogli a evitare quelli che restano o a camminarci sopra in equilibrio, come avete detto voi. Pur con il cammino libero, avrà ancora modo di mettere in pratica tutta la sua destrezza, tenacia e prudenza. Si fa un gran parlare di quanto sia virtuoso resistere alle tentazioni, ma su 50 o 500 uomini che hanno ceduto, mostratemene invece uno che abbia resistito. Perché mai dovrei illudermi che mio figlio sia proprio quell'uno su 1000 e non prepararmi per la peggiore delle ipotesi, e cioè che sia come suo, come tutti gli altri, insomma, se non mi impegno io stessa per evitarlo? Oh, molto lusinghiero per noi tutti. Io non vi conosco, mi riferisco alle persone che ho incontrato. Quando vedo il genere umano barcollare e inciampare sul suo cammino, cadere e rovinarsi gli stinchi su ogni ostacolo che incontri per strada, perché non dovrei fare del mio meglio perché mio figlio proceda su una via il più possibile liscia e sicura? Oh, non v'è dubbio. Tuttavia, la maniera migliore è quella di renderlo più forte rispetto alle tentazioni e non certo toglierle dalla sua strada. Io farò entrambe le cose e quand'anche mi sarò sforzata di rendergli odioso un vizio, di certo non mancheranno altre tentazioni dall'esterno o dall'interno. Personalmente non ho avuto molte occasioni di essere tentata da quel che il mondo definisce vizi, ma ho dovuto sopportare altre prove che hanno richiesto più determinazione e prudenza di quanto sia riuscita a trovare. Ecco, quel che ammetterebbe chiunque sia avvezzo a riflettere e disposto a migliorare la propria natura. Certo, si intromise mia madre, che aveva capito solo in parte quel che intendeva dire. Tuttavia, voglio mettervi in guardia contro questo errore, signora Graham, un errore che definirei fatale, ossia quello di farsi carico da sola dell'educazione del bambino. Voi siete capace, istruita, e vi credete all'altezza di questo compito, ma non lo siete, datemi ascolto, potreste accorgervene troppo tardi e pentirvene amaramente. Dunque, credete che dovrei mandarlo a scuola perché impari a disprezzare l'autorità e l'amore di sua madre? Rispose lei con un sorriso stizzito. Assolutamente no. Se quel che volete è che disprezzi sua madre, allora tenetelo a casa, copritelo di attenzioni e sforzatevi di assecondare ogni suo capriccio. Sono d'accordo con quanto dite, signora Markham, ma i miei valori e le mie azioni sono ben lontani da una tale criminale debolezza. Eppure continuerete a trattarlo come una bambina, a viziarlo, lo trasformerete in una femminuccia. E a prescindere da come la vedete voi, è esattamente quel che succederà. Chiederò al signor Millward di parlarvene lui. Saprà illustrarvi per bene il rischio che state correndo. Vi dirà cosa è meglio fare e sicuramente non ci metterà più di un minuto a convincervi. Non mi sembra necessario disturbare il reverendo, disse lei guardandomi, forse perché sorridevo dell'infinita fiducia che mia madre nutriva nei confronti di quel bravo gentiluomo. Il qui presente signor Markham ritiene di avere capacità di persuasione pari a quelle del reverendo Millward. Se non do retta a lui, non mi convincerò neppure vedendo qualcuno uscire dalla tomba. Dunque, signor Markham, voi che affermate la necessità di spingere un ragazzo da solo contro il male, piuttosto che cercare di proteggerlo, di insegnargli a non evitare certe insidie, ma ad affrontarle con coraggio, saltandoci dentro o sopra, ad andare a cercarsi i pericoli, a non sottrarvisi, a nutrire la propria virtù di tentazioni, consigliereste la stessa cosa in caso di... Signora, mi permetto di interrompervi, state correndo troppo. Non ho mai detto che si debba incoraggiare un bambino a precipitarsi incontro ai pericoli, né a cercarsi le tentazioni per poter allenare la sua virtù. Dico solo che è meglio corroborare e armare il proprio eroe, invece che disarmare e svigorire il nemico. Una piccola quercia cresciuta amorevolmente in una serra al riparo dei venti non sarà mai forte come l'albero cresciuto sul fianco della montagna, esposto senza riparo alle intemperie. D'accordo, ma consigliereste la stessa cosa nel caso di una ragazza? Ovviamente no. Ovviamente no. La crescereste con tenerezza e cura, come una piantina in serra, insegnandole a dipendere dalla guida e dal sostegno altrui, senza farle vedere il male neppure da lontano? Come mai, se posso chiedere, questa differenza? Pensate forse che una donna non possieda virtù? Assolutamente no. Eppure avete detto voi che la virtù si esercita solo opponendosi alle tentazioni. Dunque, perché affermare che una bambina non debba vivere tentazioni o essere esposta al vizio? Ritenete quindi che la donna sia sostanzialmente viziosa o talmente debole da non saper resistere a una tentazione? Se invece si riesce a far sì che resti innocente mantenendola nell'ignoranza o chiusa in casa, giacché non possiede una vera virtù, allora anche solo farle conoscere il peccato equivarrebbe a trasformarla in una peccatrice, tanto più conclamata e irrecuperabile quanto più grandi saranno la sua conoscenza e la sua libertà. Invece, il sesso forte tende per sua natura al bene, a una virtù più salda che si irrobustisce affrontando le insidie della vita. Per l'amor del cielo, non lo penso affatto, dissi io infine. Allora, ritenete entrambi talmente deboli e portati a sbagliare che anche il minimo errore, la più piccola distrazione, portano l'una alla rovina e l'altro a migliorarsi grazie a un poco di consuetudine con quanto c'è di proibito? Un'esperienza simile per lui a quella della quercia nella tempesta, per tornare alla similitudine di qui sopra. Che che anche se perde le foglie e ha i rami spezzati avrà almeno radici forti e profonde. Voi state dicendo che ritenete giusto incoraggiare i maschi a fare esperienza della vita e tenere le femmine all'oscuro di tutto, anche dell'altrui saggezza. Invece io vorrei che avessero tutti il vantaggio della saggezza altrui e delle indicazioni di un'autorità più alta, affinché siano in grado di distinguere il bene dal male, senza bisogno di misurarsi con la pratica per apprendere sulla loro pelle quanto sia dannosa la trasgressione. Mai mi sognerei di incoraggiare una ragazza a farsi incontro ai nemici se non sa quali insidie può nascondere per lei quella strada, né tantomeno mi precipiterei a difenderla e a proteggerla perché poi, indebolita la fiducia in se stessa, finisse per perdere la capacità o la volontà di farlo da sola. Quanto a mio figlio, al pensiero che possa diventare un uomo di mondo, come dice lei, uno che sa cos'è la vita e se ne vanta, seppure tornato in carreggiata, traendo vantaggio dalla sua esperienza e divenuto un membro attivo e rispettabile della società, ebbene, preferirei che morisse domani. Lo preferirei 1.000 volte, disse con vigore, stringendo il piccolo a sé e baciandolo sulla fronte. Il bambino, intanto, aveva già abbandonato il suo nuovo amico per tornare accanto alla madre. E la guardava incantato mentre pronunciava quelle parole per lui incomprensibili. Oh, a voi donne piace avere sempre l'ultima parola, dissi io, vedendo che la signora stava alzandosi per congedarsi da mia madre. Non so quante parole vi siano rimaste ancora da dire, ma io purtroppo non posso restare ad ascoltarle. Diciamo piuttosto che parlare con voi è come parlare al vento, già che ascoltate solo quello che vi fa comodo ascoltare. Se avete davvero tutta questa voglia di tornarci su, allora, venite con vostra sorella a trovarmi e ascolterò con pazienza qualsiasi altra cosa abbiate da dirmi. Preferirei discutere di questa faccenda con voi piuttosto che con il reverendo. Sarebbe meno imbarazzante dirvi alla fine che rimango della mia opinione, cosa di cui sono più che persuasa. Naturale, le risposi, determinato a mostrarmi altrettanto arrogante, perché quando una donna decide di prestare ascolto a qualcuno che ha un'opinione diversa dalla sua, già ha deciso che vi si opporrà e l'ascolterà con le orecchie del corpo e solo con quelle, serrando la mente a qualsiasi possibile ragionamento. Vi saluto, signor Markham, disse la mia affascinante interlocutrice con uno sguardo di commiserazione e senza ulteriori risposte. Fece un lieve inchino e si voltò per andarsene, finché suo figlio la fermò e con quell'irriverenza tipica dei bambini le disse: «Mamma, non hai dato la mano al signor Markham?» A quel punto lei mi tese la mano, che io strinsi malvolentieri, infastidito dal modo in cui si era comportata nei miei riguardi, pur senza sapere nulla di me né della mia natura. Sembrava animata da evidenti pregiudizi nei miei riguardi e determinata a dimostrarmi a ogni occasione quanto la sua opinione su di me fosse più severa ancora di quella che avevo io stesso nei miei confronti. Se non fossi stato così permaloso, non ne sarei rimasto tanto turbato. Magari ero viziato da mia madre e mia sorella e dalle altre signore che conoscevo, ma di sicuro non ero un damerino, ne sono convinto, che tu ci creda o no.